24. Di fronte a queste tragedie del Mediterraneo, le parole non servono più a nulla. Ne abbiamo dette e sentite troppe. Servono fatti e, per chi vuole, preghiere per i morti. Mix 24 di Giovanni Minoli. Carlo Nordio, 68 anni, trevigiano, procuratore aggiunto di Venezia, è passato dalle inchieste sulle cooperative rosse allo scandalo del Mose. Protagonista della Tangentopoli numero 1, si è occupato anche della maxi tangente dell'ENI. Di quell'epoca dice: «Io stesso ho usato l'arma della custodia cautelare, ma non sempre ciò che è legittimo è necessario e opportuno». Contro la corruzione, dice, occorre intervenire sugli strumenti che la rendono possibili. Le leggi sono troppe, bizantine e in contraddizione e sembrano fatte perché un pubblico ufficiale sia facile da corrompere. Semplificare è l'unica strada per combattere la corruzione e vanno eliminate il 90% delle oltre 200.000 leggi che regolano la nostra vita. Intanto i suoi colleghi Bruti Liberati, capo della Procura di Milano, e Pignatone, capo della Procura di Roma, sulle intercettazioni al Senato hanno detto: niente pubblicazioni prima del processo e in ogni caso solo quelle contenute nelle ordinanze di custodia cautelare. Ecco, dottor Nordio, è la strada giusta? È una strada nuova, ma non è sufficiente. Perché? Perché quando l'intercettazione finisce, il testo dell'intercettazione finisce nell'ordinanza di custodia cautelare, inevitabilmente finisce sui giornali e il testo e il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare è deciso discrezionalmente dal pubblico ministero, o meglio dal giudice delle indagini preliminari, che possono metterci dentro tutto quello che vogliono, anche conversazioni estranee a quello che è il contenuto dell'indagine. Ecco, però si parla nella proposta di maxi multe per i giornalisti e editori che pubblicano. Cambia il rapporto tra stampa e magistratura così? No, nel senso che è una, secondo me, un'ipotesi sbagliata. Il giornalista, per il semplice fatto di venire a conoscenza di queste intercettazioni, deve pubblicarle. Il problema è non farle arrivare al giornalista. Ma non farle arrivare vuol dire toglierle prima. Esatto, vuol dire toglierle prima. Questo è un obbligo, però. Quelle che non sono rilevanti sull'indagine. Questo sarebbe un obbligo già con la legge vigente, ma poiché Pubblico Ministero e GIP decidono discrezionalmente quali sono rilevanti o meno, possono inserirne anche alcune che oggettivamente non sono affatto rilevanti, ma che loro ritengono tali. Senta cosa diceva 30 anni fa Montanelli a proposito dell'anomalia del rapporto tra magistrati e giornalisti. Ecco, ma il problema della magistratura, allora lei come lo vede? Io lo vedo, io sono convinto che la magistratura debba essere indipendente, però chiedo ed esigo che abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti. Oggi noi abbiamo una magistratura che non risponde a nessuno dei suoi errori, spesso catastrofici, perché hanno distrutto uomini, hanno distrutto aziende per delle cose che poi sono rivelate insussistenti. Mai un magistrato ha pagato per questo. Io voglio che i magistrati paghino, non dico a dei poteri esterni, ma perlomeno al potere a cui viene affidata la disciplina nella categoria. Ha ragione Montanelli? Sì, al 90% ha ragione. Mi piacerebbe che queste sue affermazioni fossero lette ad alcuni giornalisti che oggi si dichiarano eredi morali di Montanelli. Senta, ma quando D'Alema dice la giustizia non può avere come fine quello di sputtanare le persone, ha ragione? Ha ragione, ma ha ragione tardivamente. Il partito che lui ha rappresentato con molta autorevolezza avrebbe potuto e dovuto attivarsi molto tempo prima, quando queste anomalie erano già evidenti. Lei parla di questo metodo come di una barbarie giuridica, ma con la proposta di Pignatone Liberati la barbarie si attenua, finisce oppure no? La barbarie potrebbe attenuarsi in parte, ma continuerà, ripeto, fino a quando si dà al pubblico ministero e al GIP la possibilità di introdurre nelle ordinanze di custodia cautelare e nella rispettiva richiesta il testo di intercettazioni che sono scelte da loro. Però quello non dovrebbe poter essere fatto e bisognerebbe punire chi le fa, no? No, perché la scelta è insindacabile. Un pubblico ministero può ritenere che anche una conversazione di carattere erotico sia interessante per le indagini e nessuno lo potrà smentire. E intanto quella conversazione finirà nel fascicolo e quindi sui giornali. Senta, insomma, sia l'intercettazione per fare indagini, però no la pubblicazione per chi sbaglia, diciamo, potrebbe essere, anche se poi è insindacabile l'errore, mi sta dicendo. Allora, nel momento in cui, ripeto, l'intercettazione finisce nel fascicolo, alla fine finisce nelle mani del giornalista e il giornalista ha il diritto e forse anche il dovere di pubblicarla. Non dovrebbe finire nel fascicolo processuale. Questo è già possibile oggi col sistema delle intercettazioni preventive. Ecco, lei parla di intercettazioni preventive. Che cosa intende esattamente? Sono intercettazioni che servono per ricercare la prova, quindi per sapere come si muovono i potenziali delinquenti, ma che non mirano ad acquisire in sé la prova del reato e quindi non vengono acquisite nel fascicolo processuale. Hanno più o meno la stessa efficacia investigativa molto importante delle altre intercettazioni, ma non finendo nel fascicolo processuale non possono essere portate a conoscenza di nessuno. E quindi, dottor Nordio, basta, secondo lei sarebbe meglio, sufficiente? Secondo me sarebbe sufficiente. La strada giusta, insomma. Certo, perché le intercettazioni preventive sono tenute segretissimamente sotto la responsabilità del magistrato che le ha disposte e dell'unico ufficiale di PG che le deve conservare, quindi la loro eventuale diffusione sa solo lui, insomma. Esatto. Lei sostiene anche che c'è un aspetto tecnico che rende eccessivo il potere della magistratura inquirente. Qual è questo aspetto tecnico? Beh, gli aspetti tecnici sono due. Intanto, sotto il pretesto che ogni indagine e ogni iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, si può indagare mezzo mondo. Di converso, poiché la politica ha accettato supinamente ed erroneamente il pregiudizio che chi è indagato, chi è iscritto nel registro degli indagati, sia per ciò stesso, debba essere per ciò stesso estromesso dall'attività politica, si fa 2+2. Io iscrivo Tizio nel registro degli indagati e Tizio viene estromesso dall'attività politica. Senta, dottor Nordio, intanto, dopo i fatti di Milano, Sabelli, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha detto: tutti i magistrati provano un senso di solitudine. È vero? È così? È vero e non è vero, nel senso che è consustanziale all'attività del magistrato essere solo, ma la sensazione della solitudine è una sensazione fittizia, nel senso che viene ampiamente compensata dal fatto che se sai di far bene, come tutti noi speriamo di fare, il proprio dovere, senti dietro di te almeno quella parte della cittadinanza che crede nella legalità. E quindi lei non si sente solo? Assolutamente no. No. Senta, ma lei è tornato adesso prepotentemente in campo con la corruzione per le indagini sul Mose. Che differenza c'è tra la corruzione di oggi e quella di Tangentopoli? Beh, poiché io sono stato, come si dice, protagonista anche della Tangentopoli, sì, del 92 per tutto il Veneto, posso dire con ragion veduta le differenze. All'epoca il sistema era molto blindato, c'era una distribuzione di risorse illegalmente e clandestinamente devolute ai partiti, ma generalmente solo a quelli. Oggi invece purtroppo si è vista una diffusione anche agli organi di controllo: generale della Guardia di Finanza, magistrato della Corte dei Conti, magistrato alle acque, insomma. No. Persone che erano pagate, ecco, per controllare. Ecco, lei dice che allora, prima Tangentopoli, gli appalti toccavano il 40%, per il 40% alla Democrazia Cristiana, per il 30% al PSI, per il 20% al PC. Ma il 20% al PC, anche se era l'opposizione? Certo, perché aveva un fortissimo potere interdittivo, al di là del fatto che in certe regioni d'Italia non era affatto l'opposizione, anche dove, come nel mio Veneto, dove abbiamo indagato, era in minoranza, aveva una fortissima capacità interdittiva e quindi, se non fosse stato assecondato, avrebbe potuto impedire l'opera di qualsiasi investimento pubblico. Ecco, ma i giudici allora hanno indagato in tutte le direzioni oppure no? Ma io so bene che molti hanno sostenuto che sia stata fatta, certo non nel Veneto e non da me, una sorta di preferenza verso quel partito. E io credo che abbiano investigato in realtà in tutte le direzioni, però c'era una differenza fondamentale nell'atteggiamento processuale degli indagati. E cioè, mentre il socialista e il democristiano collaborava subito, il compagno G ha fatto vari mesi di carcerazione preventiva e non ha ammesso neanche di stare al mondo. E quindi? E quindi l'elemento fondamentale che consente alle indagini di proseguire, cioè la collaborazione, in quei casi è venuto meno. Aggiungo che anche quando queste persone nella flagranza del reato non hanno potuto smentire di aver preso le mazzette, hanno sostenuto di averle prese non per sé, come dicevano i democristiani socialisti, cioè non per il partito, come dicevano i democristiani socialisti, ma per sé, in questo modo salvando il partito e dimostrando anche una fortissima coscienza politica, dimostrando cioè che rubare per il partito è molto più grave che non rubare per se stessi. Ma è l'obbligatorietà dell'azione penale che dà questa discrezionalità, un po' l'ha detto prima, nell'attivarsi in una direzione o nell'altra. Ma l'obbligatorietà dell'azione penale è un po' una favola vuota, nel senso che da un lato non può funzionare perché non è possibile indagare su tutti i reati che vengono a nostra conoscenza, infatti molti vengono trascurati e addirittura si prescrivono, e sotto un altro aspetto, con l'alibi dell'obbligatorietà dell'azione penale, un pubblico ministero può andare a indagare dove vuole. Ma il processo alla Perry Mason, diciamo, introdotto dalla riforma Vassalli, è stato un passo avanti o indietro rispetto alla situazione precedente? Sarebbe stato un passo avanti verso la civiltà, per le garanzie che offriva rispetto al processo inquisitorio del codice Rocco fascista, se fosse stato attuato in pieno. In realtà non lo è stato, e quindi oggi è peggio del codice Rocco, perché è un'arlecchinata di cui nessuno capisce più nulla. E quindi... perché concede, come diceva prima, nasconde una arbitrarietà possibile? Perché basta, è sufficiente aprire un codice di procedura penale per vedere che sotto ogni articolo c'è una tale massa di sovrapposizioni, elusioni, integrazioni, dichiarazioni di incostituzionalità, per cui nessuno capisce più nulla. Ecco, dottor Nordio, restiamo alla corruzione. Lei dice che oggi la frammentazione della politica ha portato a una diversificazione dei beneficiari. Cioè, chi si è aggiunto? Beh, come ho detto prima, gli organi di controllo si sono aggiunte, tutte quelle, cioè si è aggiunta la burocrazia, che è sempre stata la cinghia di trasmissione tra le imprese e l'alta politica, e si sono aggiunti, ahimè, proprio questi organi di controllo. Ho fatto prima alcuni esempi del MOSE, sono molto dolorosi. Senta, dottor Nordio, ma cosa vuol dire che oltre il denaro pubblico, come dice lei, si è aggiunto anche lo spreco? Si è aggiunto allo spreco perché, per aggregare, come si dice, il consenso politico, al di là della corruzione, cioè delle cosiddette mazzette, cioè il prezzo del reato, sono state elargite a destra e a sinistra delle somme, dei benefici, varie altre forme di utilità, proprio per avere appunto una sorta di consenso, di simpatia, ecco, che a sua volta giustificava questa finanza allegra che poi ha portato al raddoppio dei costi, per esempio nel caso del MOSE. Ecco, dottor Nordio, ma in Italia come funziona rispetto agli altri paesi? C'è una gran differenza? Ma c'è una grandissima differenza, ma non solo nella punizione dei colpevoli, come tutti dicono. In effetti negli altri paesi le pene sono più severe, ma soprattutto sono più certe. Ma soprattutto funziona perché intanto vi è un'educazione civica completamente diversa. Da noi il corrotto è un furbetto, da loro è un delinquente straccione da isolare dal contesto sociale. Questo è l'aspetto fondamentale, la differenza di fondo. Va anche detto che gli strumenti che consentono all'amministratore italiano di farsi corrompere sono molto più efficienti rispetto a quelli altrui, e sono le leggi che noi abbiamo, che sono così farraginose, bizantine e contraddittorie, che danno una discrezionalità che sconfina nell'arbitrio. Ecco, ma in un grande appalto internazionale, restando nel mondo, se tutti pagano, come si dice, come si fa a vincere senza pagare? Beh, diciamo che in Italia si vince senza pagare quando si fanno delle leggi apposta che saltano le regole internazionali degli appalti, come è avvenuto nel MOSE, che è sintomatico perché proprio in considerazione... Cioè, considerando tutto eccezionale, emergenziale. Allora, per usare un esempio molto banale, il pompiere diventa incendiario, viceversa. È stato creato un sistema normativo così folle, così impraticabile, per cui per un'opera gigantesca come il Mose si è dovuto ricorrere a una legge eccezionale che salta il sistema normativo e concede a un concessionario unico un arbitrio assoluto. Ecco, ma parliamoci chiaro, dottor Nordio, per capirci. Al di là della corruzione, il Mose è un'opera pubblica utile oppure no? Beh, a questo punto noi speriamo, ci auguriamo che sia utile e che funzioni. Se così fosse, onorerebbe la tecnologia italiana e noi tutti ci auguriamo che per il bene nostro e del nostro santo paese che funzioni. Cioè, fra 200 anni, secondo lei, si dirà per fortuna che l'hanno fatto, vabbè, c'è stata la corruzione, ma per fortuna che l'hanno fatto o neanche quello? Beh, questa è una bella domanda. Non sappiamo se un'opera come il Mose possa durare 200 anni o 2000 come le piramidi di Cheope o anche di più. Resta il fatto che se funzionasse sarebbe un'opera unica al mondo e di grande interesse anche come emulazione, e già si vede l'interesse di altri paesi per questa nuova inventiva. Senta, istituire un'autorità anticorruzione, affidarla a Raffaele Cantone, è stata una buona idea? È sicuramente stata una buona idea nei limiti in cui la costituzione di un'autorità può servire e serve in parte, ma ripeto, finché non ci sarà una completa rivoluzione normativa in termini di semplificazione e di individuazione di competenze, sarà inutile controllare chi non può essere controllato. Ma il valore aggiunto e la sua grande professionalità? Del dottor Cantone. Ah, questo è indubbio. Sì. Senta, ma pensa che la popolarità di cui sta godendo possa tentarlo verso la politica come è capitato per altri magistrati? Io mi auguro fermamente di no, perché sono convinto per me stesso, prima ancora che per gli altri, che un magistrato non debba mai fare politica né prima né durante e neanche dopo aver cessato la carica. Soprattutto dopo mai. Sì, perché mai, perché quando si candida si può sempre pensare che voglia sfruttare la sua popolarità, diciamo così, facendo una sorta di concorrenza sleale nei confronti degli altri della concorrenti. Costruzione del consenso. Questa è l'ipotesi benevola, l'ipotesi malevola. Si può anche pensare che si avvicini a una formazione politica magari perché nei tempi precedenti ha usato nei suoi confronti un occhio di riguardo. Questo non è mai accaduto e non accadrà, ma la gente lo potrebbe pensare. Sicuro che non è mai accaduto? Certamente. Certo. Escludo in via assoluta che la magistratura abbia avuto nel suo seno persone che hanno avuto ambizioni personali. Dopo Mafia Capitale, Renzi ha chiesto pene più severe. Servono oppure rischiano di essere solo grida manzoniane? Servono per dimostrare all'opinione pubblica che il governo ha delle buone intenzioni. L'opinione pubblica è molto sensibile, diciamo così, emotivamente a queste reazioni e sotto questo profilo servono. Dal punto di vista tecnico l'efficacia è zero perché non serve inasprire le pene. Senta, cosa non riesce a fare la politica che invece dovrebbe fare? Dovrebbe semplificare le procedure e individuare bene le competenze. Detto prima. Ecco, lei sostiene che negli ultimi anni non è la magistratura che ha fatto passi avanti, ma la politica che ha fatto troppi passi indietro. Cioè, in due parole? Cioè ha lasciato che la magistratura invadesse dei campi che non erano suoi, non perché la magistratura intendesse farlo, ma perché la politica l'aveva accettato. Come supplenza. Come supplenza. L'esempio classico è il pregiudizio stupido che l'informazione di garanzia sia un titolo per delegittimare un politico. In questo modo il magistrato che manda un'informazione di garanzia ha in mano la sorte politica di una persona. Senta, Renzi, annunciando la rivoluzione della giustizia che vorrebbe fare, ha iniziato dalle ferie dei giudici. È una falsa partenza o no? Ma direi che è un po' demagogica. Le ferie dei giudici sono l'ultimo dei nostri problemi. Senta, dottor Nordio, parliamo della responsabilità civile dei giudici. Le do qualche numero. Dall'88 al 2011, su 400 cause proposte, solo 34 sono state ammesse, solo in 4 casi si è arrivati alla condanna. Non è un po' poco? Sì, bisogna considerare che l'attività del giudice è esposta a errori. Bisogna considerare anche che l'attività dei giudici più importanti, cioè quelle delle corti d'assise che ti mandano all'ergastolo, è esercitata da giudici popolari. Cosa faremo? Faremo causa ai giudici popolari, non ne troveremo più uno. Senta, dottor Nordio, ho letto che lei dice che almeno un quarto del nostro lavoro, si riferisce al vostro lavoro, è completamente inutile. Perché? sono stato ottimista, potrei anche dire la metà, è inutile. Come mai? Perché abbiamo una serie di incombenze che sono ridicole. Le faccio un esempio: se le rubano un orologino da 30 euro negli Stati Uniti, in tutto il mondo, gli atti e non si trova il colpevole, gli atti restano negli archivi della questura. Da noi si formano tre fascicoli, uno davanti al PM, uno davanti al GIP e uno davanti al ricorso. Lei perché ha scelto di fare il magistrato? Una passione? Sì, è il lavoro più bello e anche più libero che esista. Lo rifarebbe, quindi. Ma certamente sì. Ma se ripensa alla sua carriera, c'è qualcosa che vorrebbe non aver fatto? Beh, sicuramente alcune, certo, una me ne viene in mente, alcune carcerazioni preventive nella prima Tangentopoli del 92, che sono tutte state confermate dalla Cassazione, quindi erano perfettamente legittime, ma forse non erano necessarie. Hanno provocato dolore e in un caso, ahimè, sia pure non direttamente, molto tempo dopo, anche un suicidio. Senta, dottor Nordio, in Italia quasi un quarto dei carcerati in attesa di giudizio. Che fare? A rendere i processi più rapidi, pacifico. È l'unica strada. È l'unica strada. Dottor Nordio, un grande giurista come Carnelutti, Francesco Carnelutti, diceva che la democrazia di un paese si giudica dalle leggi che regolano il processo penale. È vero, secondo lei? Direi che in gran parte è vero, sì. In gran parte è vero. Un'ultima domanda. Lei spesso e volentieri cita Tacito, che 2000 anni fa diceva che più la Repubblica è corrotta, più produce leggi. Siamo fermi a 2000 anni fa, allora? Sì, siamo fermi e non si vedono spiragli di novità. La frase di Tacito, proprio corruptissima Repubblica plurime leges, si può interpretare, si deve interpretare, secondo proprio la tipica ambiguità latina, ambiguità in senso buono, che più la Repubblica è corrotta e più leggi produce, per farsi, diciamo così, un alibi, e più leggi produce e più fornisce strumenti di corruzione. Certo. E siamo sempre lì, e forse peggio. Grazie. Grazie a lei. Mix 24. Dolce la canzone del lunedì, eh? Buongiorno, ed è dolce perché il filosofo ha spiegato un concetto, anzi no, lo ha avuto spiegato lui da un uomo che era in viaggio, gli stava accanto, è arrivato da chissà dove con un magnifico pappagallo con sé, splendido di piumaggio e abile di parola. E quest'uomo ha spiegato questo concetto, la capacità di sentire ciò che non può essere pronunciato è il sentimento. Colui che possiede un cuore, ha detto, è sovrano dei cuori. Così ha spiegato, e il pappagallo, addestrato alle scienze, tentò di porgere una delizia, una perla, una freccia, ma l'uomo, che era un sufi, fermò sul becco l'intenzione e disse: sappi che una parola uscita all'improvviso dalla bocca è simile ad una freccia da un arco. E il filosofo ebbe a deludersi perché si aspettava una sentenza dal pappagallo, ma il sufi gli regalò un sorriso e disse: ciò che è stato detto non è mai stato. È il sentimento e il sentire in forza di ciò che viene dimenticato. La freccia scoccata deve essere sempre deviata dal suo corso. Freccia deviata dal suo corso, caro Mario. Chi è che ha lanciato frecce ultimamente nelle tue bolle? Parliamo di frecce lanciate. Frecce? No. Senti questa freccettina. Dal primo settembre mi rimetterò dal Parlamento, da questo Parlamento. Io vivrò del mio lavoro. Enrico Letta, ognuno di noi vive del suo lavoro. Cosa strana. Non è una grande scoperta. Devo dire di no. Tu di cosa vivi, Buttafuoco? D'aria. No, vorrebbe, lavoro, vivere, no. Vorrebbe vivere del suo lavoro. Noi siamo come noi i giornalieri. Ogni giorno ci rivolgiamo al destino che, come un caporale, ci assegna le giornate. Si passano in camion. Forse non vuole votare l'Italia. Come dai? Che cos'è? Ma cos'è sta storia? Ma si dimette davvero? Sì. Che ne so, per dimettersi bisogna che ci sia una votazione del Parlamento. Però una bella notizia così ce la poteva dare Renzi. Dai, vai con le tue bolle. Così vediamo se ci arriva coi voti poi a fare il Premier. Vabbè, state sereni, dai. Grande, eh? Secondo matrimonio? No, io no, manco morta. No, marcia nuziale, ma dei Queen, chi vuol mettere alla meta, se vuole appunto sposarsi felicemente, poi infelicemente, e si discute domani alla Camera il divorzio breve, sempre tra virgolette, in Italia. Comunque i termini della separazione si accorciano certamente, da 3 anni come adesso, perché c'è un periodo di separazione obbligatorio, per chi non lo sapesse, e poi c'è il divorzio. Ora, il periodo di separazione, che resta obbligatorio, però si accorcia da 3 anni a 1 anno se ci sono figli minori, oppure 6 mesi. Quindi un po' si accorcia. Tieni presente che poi però il divorzio sono molte udienze, insomma, passa un bel po' di tempo, dipende se è consensuale o giudiziale. Vabbè, comunque, rotti i patti, si rompono i piatti e dal matrimonio si passa al patrimonio, ricordatevelo. Salamino. Degna la vita di colui che sveglio, ma ancor di più. È stato diffuso un nuovo video dello Stato Islamico, il cosiddetto ISIS. Nelle sequenze, la profanazione dei simboli cristiani e la uccisione di 28 etiopi. Alcuni decapitati, altri uccisi con un colpo alla nuca. Le vittime, tutte cristiani, sono figli della Chiesa d'Abissinia. E siccome il primo passo nella lotta al terrorismo è la lotta all'ignoranza, è bene ricordare agli assassini di avere ucciso, coi 28 etiopi cristiani, uno dei primi atti santi e sacri della luce di Muhammad, del profeta Maometto, quando, dovendo salvare la propria comunità perseguitata, indicò ai musulmani la via della salvezza unica in quella direzione, dicendo: andate dal re cristiano degli etiopi, egli vi trarrà in salvo e vi proteggerà. Arrivarono i meccani per uccidere i musulmani, ma il re cristiano ha già ascoltato il racconto di Gesù e di Maria fatto dai compagni di Maometto, prende la propria spada e traccia sulla sabbia una riga sottile, dicendo: la differenza tra voi e noi non supera lo spessore di questo solco. E fu così che salvò la vita dei musulmani, avendo chiaro il concetto e il precetto di Maometto, quando disse ai propri uomini: cercate la salvezza, andate dal re cristiano d'Abissinia. Sia lode, lode all'inviolato, all'inviolato. Sara, che cosa ci racconti oggi? Scusa, Paul, di che cosa stiamo parlando? Io lo so di che sto parlando. Tu di che stai parlando? Del posto. Del posto? E io sarei incazzato nero per uno stupidissimo cesso di colloquio. Abbiamo perso in casa col derby oggi, perso. Vorrei dormire per le prossime 10 stagioni. Stagioni? Sono stufa di sentir parlare di queste stramaledette stagioni. Nella vita reale si chiamano anni, Paul, lo sai? Da gennaio a dicembre. Non per tutti è così. Sì! In Italia i tifosi di calcio sono 22 milioni, ma questa passione rischia di essere demolita dalle frange violente delle sue tifoserie. E dopo lo scontro tra il presidente della Roma Pallotta e i tifosi della Curva Sud, che ha riempito le pagine dei nostri giornali, in questo weekend i giocatori del Cagliari sono stati aggrediti in ritiro e la partita Varese-Avellino è stata rimandata di un giorno perché lo stadio Ossola è stato devastato da un gruppo di vandali nella notte di venerdì. Dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive della stagione scorsa emergono dati preoccupanti. Infatti, su 2.689 partite monitorate, gli episodi di violenza conferiti sono aumentati del 105% in Serie A, del 44% in Serie B e del 53% in Lega Pro. E allora, a chi rimane la voglia di andare allo stadio? Solo al 2% dei 22 milioni di tifosi. Gli altri stanno a guardare le partite dal divano di casa loro, mentre i club perdono incassi e i campioni volano via. Oh, Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù. C'è una notizia oggi sul Sole 24 Ore, il sondaggio fatto dal Sole 24 Ore IPR Marketing, che misura il gradimento dei sindaci da parte dei loro cittadini. E ci sono delle sorprese interessanti. Non sono i grandi sindaci di Bologna, Roma, Milano, Napoli a essere in testa alla classifica. De Magistris è solo 58esimo, Pisapia 67esimo, Marino 82esimo. Ma vince il sindaco di Firenze, Dario Nardella, secondo il sindaco di Bari, De Caro, e poi il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Beh, insomma, il gradimento. Giorgetto Gori. Testa. Vabbè, Gori, vabbè, insomma, bene. Mix 24. Beh, allora senti, Simple Minds, Alive and Kicking. Ok, grande pezzo. E Google sta per cambiare, anzi ha già cambiato di fatto il suo algoritmo, perché lo sta puntando di più, diciamo, sui siti pronto buttafuoco, mobile friendly. Nel dizionario peritollesco, fa fortissimo. No, ma se lo chiedi loro non sanno neanche cos'è. Vabbè. Comunque non c'è da preoccuparsi, o c'è da preoccuparsi. Se hai un sito internet che, diciamo così, si adatta, è responsive sui telefonini, sugli smartphone per intenderci, o sull'iPad o su un altro tablet, insomma, sei ricercabile facilmente. Se il tuo sito è vecchio ed è fatto solo per stare sullo schermo di un PC, insomma, non te la cavi bene, perché sarà ricercato meno, diciamo, dalle formule dell'algoritmo. È una cosa molto importante. Io non ho capito perché, niente, ma deve essere importantissima. È fondamentale. Tu hai qua un iPhone, un iPhone che usi, adesso non mi fa che usi molto di più sicuramente del tuo PC. Cosa significa? Che le tue ricerche le fai qui. No, adesso te l'ho sequestrato. Che le tue ricerche le fai qui. Questo significa che Google punterà di più le sue ricerche sui telefoni. Mario, vai con la prossima bolla, va. Ti farai volare sulle onde, sulla vita con un'altalena, e parlare pure con i pesci, come una sirena. Una bella notizia di geopolitica per chi vuole vivere il proprio tempo. Questo è un pezzo fantastico di Litfiba, prima maniera, è che la Cina mette le mani sul Pakistan. C'è oggi la visita del presidente Xi Jinping in Pakistan, è la prima volta dopo 9 anni, e Pechino mette 46 miliardi di dollari di investimenti in Pakistan. Strade, infrastrutture. Veramente. 46 miliardi, servirebbe una bella roba. Sono bilancio. Più di 4 volte il bonus da 80 euro di Renzi, tanto per dirne una. E siamo al lunedì libro di Alessandra Fiori. In quanti modi la nostalgia di un amore perduto può condizionare l'esistenza? Per il fisico Giovanni Cadorna, protagonista della Lottatrice di Sumo di Giorgio Nisini, le risposte sono legate a un'inquietudine universale che nel suo caso ha il sapore del rimpianto. Giovanni sta per compiere 50 anni. ha scritto un libro in cui esprime tutto il suo scetticismo sull'aldilà. Il libro scala le classifiche, entra nei salotti televisivi, ma Giovanni assiste ai successi e ai fallimenti della sua esistenza come uno spettatore distratto che non riesca ad appassionarsi alla trama. C'è una spaccatura profonda nel suo passato, quando, studente universitario ventenne, ha amato Margherita, perdendola improvvisamente per un incidente. Gli è rimasto un quadro, la lottatrice di sumo, e il ricordo nitido del pomeriggio in cui lei glielo aveva regalato insieme alla richiesta di scriverle un biglietto una volta diventato adulto. Margherita lo aveva chiamato un ponte di comunicazione, perché il pensiero di ricevere un tuo messaggio dal passato mi sembra una piccola vittoria sul tempo. Adesso, a 30 anni di distanza, attraverso quel quadro, il passato torna ad affacciarsi in un presente visionario e incerto, in cui Giovanni è chiamato a cercare nuove risposte. La lottatrice di sumo di Giorgio Nisini, pubblicato da Fazzi. Salamino! ...73,7% dei consensi, sia esso maggioritario, sia esso proporzionale, sia esso sorteggio, Vladimirello Crisafulli vince sempre a Enna, roccaforte da sempre del leader, già PC, PDS, DS, oggi PD, insomma il candidato che non piace alla gente che piace, dunque il candidato che non può piacere al signor Premier e a tutti i piritolli, vince, rivince, stravince perché piace al popolo e domina nelle primarie del Partito Democratico. 73,7%! Cosa devo fare di più? Ha detto il povero Mirello. Io sono un tesserato del PD, non ho più nessuna pendenza giudiziaria, sono stato indicato dagli organi del partito e adesso votato dai cittadini. Insomma, vince, rivince, stravince Mirello. Renzi non se ne farà mai un selfie con lui, e meno male. Meno male, perché Renzi in Sicilia fa perdere voti. Renzi è lo sponsor di Rosario Crocetta. Ah, ma qui siamo quando proprio bisogna in fondo al cuore. Tu guerra tutta interna. No, ma proprio interna, Enna contro Palermo. No, che c'entra questo? Tutti riciclati, se li è presi Renzi. Vabbè. Non avete. Andateli a guardare. Vabbè, già le fotografie mi fanno spaventare. Avremo modo di continuare a parlarne, ma intanto vogliamo sapere che cosa Mariella Minone ci racconta oggi dopo il giornale radio. Ci spostiamo in Estremo Oriente e parliamo di Cina. La puntata, in due puntate a partire da oggi. La puntata di oggi è dedicata all'ascesa di Mao Zedong, il grande timoniere, di cui ancora oggi in Cina esiste il culto. Ne parliamo con Federico Rampini. Bene. E allora sentiremo e seguiremo la storia di Mao Zedong dopo il giornale radio, ma prima della pubblicità ritornerai di Bruno Lauzi. Riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola tua libertà, ed è per questo che tu